blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sai quante sofferenze ho sopportato per scrivere la nostra opera? Tu parli a me di sofferenza, Riccardo. Tu! Non vedi che domando il tuo perdono? Ho espiato abbastanza, non credi? Non credo, ma è abbastanza! Lo ricordate? Era il film che raccontava la storia di Farinelli, il notissimo castrato, al tempo in cui tagliavano le palle agli uomini per farli cantare in maniera divina. Una brutta storia in cui, naturalmente, come accadeva ai tempi, i padri vendevano i figli ai preti per fargli tagliare le palle, perché era un bel affare. In questo caso c'è una circostanza ancora più grave: c'era un fratello che scriveva musica, quindi aveva tutto l'interesse che facesse l'operazione al fratello piuttosto che a lui, che scriveva musica e l'altro avrebbe cantato. L'interprete di questo film era Stefano Dionisi. Questo film prese per la sua interpretazione un Davide Donatello. Sono passati anni. Stefano Dionisi oggi è con me in studio perché racconta la sua storia. Pubblicato un libro che presenteranno domani alla Galleria Sordi alle 18 a Roma, La Barca dei Folli, edito da Mondadori. In questo libro un attore che siamo abituati a vedere come persona di successo, persona splendida, persona circondata dagli onori e dall'abbraccio della folla, ha raccontato invece una sua storia di isolamento, perché per un certo periodo della sua vita ha avuto dei problemi di tipo psichico, e questo ti tiene fuori dal mondo, perché tutto si può dichiarare che sia rubato, si può dichiarare che sia infami, si può dichiarare che sia traditori, si può dichiarare che si hanno mille problemi, ma non puoi dire che tu hai dei problemi tipo psichico. Questa è una vecchia storia. Chi ha questo problema in realtà colpisce la stirpe, colpisce il mondo, colpisce l'umanità, e quindi la barca dei folli deve navigare in acque solitarie. Stefano Dionisi, buongiorno. Ciao Gianluca, grazie per la presentazione e per avermi invitato qua. Ah beh, tu sai che con la follia io ho un rapporto quotidiano, quindi mi piace chiamare a bordo i folli che hanno il coraggio e la determinatezza di raccontare la loro follia. Cosa ti è successo? L'11 settembre del 2011 ho subito un TSO. Avvicinati al microfono. Ho subito un TSO, che è un trattamento sanitario obbligatorio in una città del centro nord d'Italia, mentre ero in lavorazione con un film di nome Sant'Antonio da Padova, un film italiano. Non ti ha fatto il miracolo a te? No, male. Non mi ha fatto il miracolo, e comunque diciamo che dal punto di vista pratico, insomma, ho subito il ricovero e sono stato sostituito da un altro attore. Cos'è accaduto esattamente quel giorno? Vediamo se te lo ricordi. Beh, il percorso... Ti sei sentito male? Ecco, il percorso di queste patologie non è immediato, non è che succede in un giorno. Avevo avuto delle avvisaglie, avevo fatto degli incontri con un professore con la P grande, che cominciò a una terapia con degli psicofarmaci. Poi durante il film, forse per la tensione del personaggio, forse per qualcosa di oscuro che nella notte mi è salito, ho abbandonato tutto: portafoglio come simbolo ormai della nostra esistenza, l'identità, quindi il documento gettato nella strada, e sono scappato in un paese lì vicino. Vabbè, è mollato tutto, te ne sei andata, te la sentivi di far questo. Sì. La reazione qual è stata nel set, gli amici, gli attori, le altre persone? Bene, lo descrivo bene nel libro, insomma, ovviamente il percorso è un percorso solitario. Una volta che succede un incidente di questo tipo, bisogna iniziare un recupero solitario aiutato, insomma, dalle strutture sanitarie, dai farmaci, eccetera. La tua domanda con precisione qual era? No, cosa? L'ambiente dei colleghi, dei professionisti, certo, del cinema, dello spettacolo, del rutilante mondo della gloria e delle persone splendide, come ha reagito al fatto che tu a un certo punto sei uscito dal cerchio delle persone illuminate dallo splendore? Guarda, il primo momento è stato un momento solitario negli ospedali e c'è stato un po' di recupero. Dopo un anno ho avuto una proposta di lavoro e sono stato invitato in un paese dell'est con un grosso contratto da un dirigente molto importante. Quando sono arrivato Diciamo, i miei colleghi mi hanno fatto trovare un biglietto nella mia camera con scritto: non ce la farai neanche questa volta, neanche con i medicinali. E, beh, un bel regalo. Beh sì, sono stato licenziato dopo 24 ore dal regista bambino. Ho letto, sì, infatti ho letto nel libro che c'è questo biglietto, nessuno sapeva chi l'avesse messo, era entrata solo l'infermiera nella stanza. La donna delle pulizie. La donna delle pulizie nella stanza, certo. Quasi una lettera anonima e minatoria. Che bisogno c'era secondo te di farlo? Non so, queste cose sono è il male, no? Che arriva in una profondità che è incomprensibile, e in effetti mandando anche via fax alla mia agente il testo del biglietto, c'è stato come un momento di dire, abbiamo detto tutti insieme, beh, freghiamocene, andiamo avanti, però anche col contratto in tasca, una volta vestito e nel ruolo ottocentesco davanti alla macchina da presa, sono stato licenziato con le parole: non sei adatto per questo personaggio, lo faccio per te, e mi hanno mandato a Roma. Beh, questo ti ha dato l'idea che il mondo non accetta la follia come alternativa. Diciamo che il mio è un ambiente molto molto competitivo, quindi non gli sembrava vero. Non gli sembrava vero, insomma, ma io poi non avendo l'invidia l'ho conosciuta da grande, quindi ho solo subito quelli che sono stati gli attacchi che ho avuto dopo questa malattia. Cioè, io ho un disturbo affettivo in remissione farmacologica. E tradotto cosa sarebbe? Tradotto, cioè, è così, ma tradotto in maniera clinica è maniaco-depressione, ecco, in remissione farmacologica, che significa che ho avuto un evento maniacale, ma questo non vuol dire che vivo in un mondo fantastico e maniacale, ecco. Beh, se no non saresti qua, sei arrivato col motorino, quindi la tua vita adesso è di una persona che si comporta normalmente. Certo, certo, faccio molta attenzione a prendermi cura di me stesso, ad assumere i medicinali, ad aver concluso la mia terapia freudiana dopo 7 anni, a un rapporto, alla ricerca di questo rapporto affettivo dappertutto, anche col vuoto a perdere, insomma, quindi così, sono in ricerca di aiutare qualcuno e di essere aiutato. Ecco, spiego bene quello che secondo me è il punto fondamentale di questa storia. Intanto invito gli ascoltatori a chiamare all'800240024. Cosa mi serve oggi? Oggi mi serve di trovare storie parallele a quella di Stefano Dionisi, che ha avuto un gran coraggio. Oggi le persone si nascondono quando hanno problemi del genere, hanno sempre paura che poi l'aspetto non compatto, non lucido nei confronti di un mondo che passa il tempo a tirar cocaina e a farsi di stupefacenti, quindi naturalmente ha una visione sempre comunque falsata alla realtà, beh, non è ammissibile, non bisogna parlarne, e quindi ci sente emarginati. Vi siete sentiti voi emarginati per il fatto che avete detto a qualcuno, o è girata la storia, avete qualche problema, eravate un po' depressi, o avete dei problemi anche più pesanti, o li avevate in famiglia? Questo mi interessa di sapere. Provo a sentire, Stefano, tu quando parli di disturbo affettivo, in sottotraccia nella storia di questo libro c'è una storia familiare non sempre appalesata, non sempre raccontata, di un padre che non vedevi dall'età di 5 anni, poi sei andato a ricercare, poi ho rivisto, poi ti sei accorto quando il padre è morto che anche lui aveva dei certificati, che aveva qualche problema di questo tipo, e il libro finisce quasi con una... vabbè, non diciamo come finisce, non voglio fare lo spoiler del libro, però è legato comunque alla presenza di questo padre. Ecco, è questa, diciamo, la parte fondamentale, l'aspetto familiare che senti ancora come un problema su cui hai lavorato, su cui devi lavorare? Ecco, io iniziando la terapia con un ottimo medico freudiana, ovviamente abbiamo lavorato, oltre che sull'interpretazione dei sogni, anche molto su quelli che erano i shock della mia infanzia, e questo padre lontano, in qualche modo questa lacuna, questo vuoto andava colmato, e negli anni di terapia, che in tutto sono durati 7 tra terapia individuale e terapia di gruppo, 2 anni, ho trovato la forza di presentarmi io e il dono che portavo, cioè mio figlio, a mio padre. Perché? Perché sentivo che un bambino che viene abbandonato non sente un sentimento, cioè può sentire 2 sentimenti, uno di rabbia e quindi di rifiuto, o uno di abbandono. Nel mio caso è stato quello dell'abbandono, quindi dovevo in qualche modo recuperare questo. Io non so se nel mio caso è stato solo l'abbandono, ma comunque era uno dei tanti tasselli da ricostruire. 800240024, qual è il vostro rapporto con il disagio di tipo psichico. Non è una trasmissione medica, è una trasmissione sociale questa. La società oggi non ammette che ci siano problemi del genere, anche se formalmente, grazie a una legge illuminata, in Italia non esistono più i luoghi di reclusione. Stefano Nisi racconta di una sua reclusione nei confronti del mondo, perché è molto difficile poi essere riaccettato, essere capiti dopo percorsi del genere. Beppe Neri, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Questa è materia per l'amico Beppe Neri, ricordo, neuropsichiatra, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Nei tuoi lunghi anni di esperienza, che hai conosciuto da vicino il disagio psichico-psichiatrico in tutte le forme, trovi che ancora esista nella nostra società un grosso pregiudizio nei confronti di chi dichiara apertamente o di chi è palese che abbia avuto questo tipo di disagio? Beh, il pregiudizio non soltanto esiste, ma stride in maniera estremamente pesante con quella che è la tendenza invece a proporre dei modelli perfetti, organizzati, politically correct, di sistema che prende in carico, questa è la parola chiave, prende in carico il paziente psichiatrico e se ne occupa sotto vari aspetti. Allora, io dico sempre che bisogna, come secondo me Dionisi fa molto bene nel suo libro, con una chiarezza, un'efficacia, una spietata aderenza alla realtà che mi ha colpito, bisogna chiedere a chi c'è stato dentro, alle persone direttamente interessate, ai loro familiari. Questi diranno la situazione vera e la condizione reale delle persone che soffrono di alcuni disturbi, perché noi medici, per il nostro trionfalismo, per il nostro approccio portato a esaltare alcune tra virgolette conquiste della psichiatria democratica, spesso non teniamo conto che l'unico o il fondamentale punto di vista da tenere presente è quello dei nostri pazienti e dei loro familiari. 800240024, Isabella al telefono, buongiorno. Buongiorno a voi. Guarda, io volevo dare una parola, sensibilità. Quando una persona ha una spiccata sensibilità, vive a 360 gradi tutto ciò che la vita propone, un abbandono, qualsiasi evento, bello o brutto che sia. Purtroppo non abbiamo l'educazione in generale, perché è un limite umano. Quello dell'accettazione di tutto a 360 gradi, ci schermiamo spesso e quindi le sofferenze poi che nascono sono molto individuali, ma nessuno è pazzo, ci sono sensibilità più acute che fanno probabilmente vivere delle realtà in modo diverso. Ecco, sarebbe auspicabile. Ma lei ne parla per esperienze personali e familiari? Sì, ne parlo per esperienza personale. Io sono stata una ragazza bulimica, sono magrissima adesso, sono una 74 e peso 56 kg, ma da sempre, io mi vedevo grassa. Quindi il percorso l'ho fatto anche io e mi sono resa conto che è chiaro che poi la mia sensibilità è particolare rispetto ad altri. Ascoltavo Stefano, l'attore si chiama così, Stefano, sì. Ho sbagliato. Sì, Stefano. Ascoltavo Stefano e rivivevo alcuni passaggi che però ho visto nella mia vita. Io sono 50 anni, sono un accompagnatore turistico, lavoro nel mondo, quindi ho una socialità molto spiccata. Ho visto proprio che c'è una peculiarità personale, una grande ricchezza personale, che non è la mia, io sono una degli ultime, però notoriamente vedo che le persone che soffrono maggiormente, che hanno appunto questo tipo di realtà, hanno dei quid in più, hanno delle sensibilità spiccate che spesso non vengono o perlomeno noi pazzi, mi ci metto io, noi pazzi ce lo diciamo, perché in fondo diamo una giustificazione a questo occhio profondo. Guarda, fermali, basta, no, hai parlato, non parli più. Stefano Dionisi, no, bello, occupa tutto il tempo. Nel tuo libro la parte interessante e la parte, se posso dire, divertente è la descrizione che fai dei luoghi che hai attraversato, e ci sono dei personaggi, sembra quasi che è una sceneggiatura di un film, quando in realtà è un film, non è, anzi è la tua vita, però è il film più vivo e vivace che tu potevi raccontare. Cito alcuni nomi: il professor Sbrano, Tacchi a Spillo, il conte Ciuf Ciuf, sono i personaggi che vedi lì, professore, medici, infermiere. Raccontane qualcuno, perché dai questi nomi alle persone? Li chiamavate veramente così o, diciamo, è un tuo escamotage letterario poi per non rappresentare persone reali che hanno realmente vissuto nella tua vita? No, i soprannomi nascono proprio all'interno della clinica, quando intorno al tavolo si passa moltissimo tempo a chiacchierare del più e del meno. alla fine, se il pilota, che è uno dei personaggi, è un pilota dell'aeronautica, lo chiamavo io il pilota o il conte, ma tutti hanno un motivo perché erano chiamati il conte. È un gran personaggio, il conte è un personaggio che trombava tutte le pazienti, sì, che cerca di trombare tutte le pazienti, che entra e esce dalla clinica ogni anno, e è comunque di una famiglia borghese ricca, e per cui ecco, passa il suo tempo in queste cliniche a riabilitarsi da alcol, perché è un gran consumatore d'alcol. Ciucciuff è il mio personaggio preferito, perché è quest'uomo anziano che, mentre nella sala comune di questa clinica semiconvenzionata a Roma, veramente semiconvenzionata, insomma, anche un po' triste, no? Perché c'è solo un salone dove si spende il tempo insieme, poi ci sono le camerate, il salone è il posto dove nasce tutto. E ci si annoia, si guarda fuori dalle finestre, si aspetta che cambi il tempo tanto per vedere un cambiamento, e nel giardino magari un po' di pioggia, e in questi frangenti, in questa solitudine o anche in questi momenti, come dire, di attesa, ecco, l'attesa che di stare meglio, Ciuff Ciuff è questo uomo sessantenne che arriva alla vetrata del salone comune e comincia a piangere, ma quasi a spaventarsi. Allora io siccome lo conoscevo, lo chiamavamo tutti Ciucciuff. Cosa aveva? Aveva che doveva aspettare questo treno che arrivava dalle 6:25 da Viterbo a Roma, guardando fuori dalla finestra. Ma il bello è che la sua ansia era che questo treno è in ritardo quel giorno. Io l'ho aiutata ad aspettare, insieme a lui abbiamo guardato dalla vetrata l'arrivo del ferro, del treno metallico, delle sue ruote, del suo rumore. Una volta che mi sono girato, che il treno è arrivato, il problema è che il vuoto c'era ancora, cioè, nel senso, oddio, mi è passato il treno, però adesso chi sono io, cosa faccio, come lo dico ai miei parenti, alla mia famiglia, che sono in questa situazione? Per cui c'era la parte maniacale, fantastica, chiamatela come volete, l'approccio al fantastico in quel modo, e poi un ritorno alla realtà immediato, come se dopo che questo treno l'ha sentito, resta così immobile, come dire, adesso che faccio? È lì che capisci. Tu sei anche evaso una volta. Sì, sono evaso. Come mai? Con degli altri alcolisti, ma per gioco. Cioè, sembra vedere il nido del cuculo. Cioè, se non sapessimo che ormai i manicomi non esistono più in Italia, sembra la descrizione di scene del genere. Sì, perché noi pensiamo. Sì, in effetti, una volta entrato, hai delle regole molto ferree. Noi siamo evasi perché due dei miei colleghi alcolisti il giorno dopo avrebbero fatto una terapia dove poi sarebbe stato impossibile bere per mesi, per cui io... Gli davano un antidoto che non sentiamo più l'alcol, praticamente. Beh, no, è una medicina che viene messa sotto pelle, che si chiama antabuse, e sono delle pasticche che si sciolgono in 6 mesi e che fanno sì che se tu tocchi alcol in quel momento, vai immediatamente all'ospedale, stai malissimo. Vabbè, quindi... come la castrazione chimica per un maniaco sessuale, sì, solo cosa. Che è semestrale. Ecco. Fermiamoci un attimo, dare la linea per la pubblicità, fra un secondo riprendiamo. 800 24 00 24, la malattia psichica, questa sconosciuta e questa indicibile vicenda. A svolte ti diranno: hai fatto una sterzata, ma tu segui la tua fuoristrada. Sterrare è umano. Nuova gamma Mini Countryman, tua a partire da 220 euro al mese, con un anno di assicurazione incendio e furto e pacchetto di manutenzione in omaggio. Tanfisso 5,99, tag 7,81. Offerta valida fino al 30 settembre. Esempio per Mini One Countryman con finanziamento maxi rata. Messaggio promozionale salvo approvazione di Mini Financial Services. Fogli informativi presso le concessionarie Mini aderenti e su mini.it. Sei un'azienda e vuoi sbaragliare le aziende concorrenti? Agenti.it ti invita a Forum Agenti Milano, la fiera di ricerca agenti di commercio. Vai su agenti.it e prenota il tuo stand a Forum Agenti Milano. Incontrerai i tuoi nuovi agenti e batterai la concorrenza. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. 26-28 novembre, Fiera Milano City. Ehi tu! Hai un piano B per metterti al sicuro dagli imprevisti della vita? AXA presenta Tutta la Vita, l'assicurazione che protegge l'acquisto della casa, il futuro dei figli, i desideri di chi ami, e ti dà un capitale se per un grave imprevisto o un problema di salute venisse a mancare il tuo sostegno. Vai su tuttalavita.axa.it e crea il tuo piano B. AXA Tutta la Vita, protezione e serenità anche nelle avversità. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo su tuttalavita.axa.it, nelle agenzie AXA e nelle filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena. Servizio assistenza software gestionale, io mi dica! Sì, ecco, non riesco ad adattare il vostro software alla mia nuova linea produttiva. Nein, impossibile! Azienda deve adatta software, nein, viceversa! casa! La flessibilità del tuo software gestionale ha ampi margini di miglioramento? Ora puoi cambiare. Da 35 anni, Team System sviluppa una gamma di innovativi software gestionali per aziende e professionisti che sanno adeguarsi a un mercato che cambia. Semplifica la gestione della tua impresa con Team System. www.teamsystem.com. Sono Bill Wright, consulente riduzione costi. Qui in Volkswagen vi siete inventati la Polo Cross. Bellissima, più alta, maggiore visibilità, perfetto. Ma in più, protezioni sottoscocca, protezioni laterali, protezioni posteriori. Troppe protezioni, eliminiamole. Chi compra Polo Cross vuole l'avventura. Scopri nuova Polo Cross, tua anche con finanziamento TanZero TAEG 2.18, anche sabato 19 e domenica 20. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Volkswagen.it. Riscaldamento globale e alimentazione. Quali scenari per il futuro? Radio 24 e Edison presentano la conferenza Global Warming and the World's Food Supply, parte del programma Edison Open for Expo. Relatore d'eccezione, l'economista Paul Allan David. Venerdì 18 settembre alle 11, partecipa all'evento a Palazzo Edison in Foro Bonaparte 31 a Milano o seguilo in live streaming su radio24.it. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura di 3B Meteo. Un saluto da Paolo Corazzon di 3B Meteo agli ascoltatori di Radio 24. Situazione nel complesso tranquilla nelle prossime ore nelle regioni centro-meridionali, dove è vero non mancheranno un po' di nuvole di passaggio, ma non prevediamo precipitazioni significative da nessuna parte e in più temperature in aumento. Già oggi potremo toccare i 30 gradi, specie nelle regioni meridionali. Addirittura nei prossimi giorni prevediamo punte al sud di 35-36 gradi. Nel frattempo anche nelle regioni settentrionali la situazione è migliorata, anche se insistono ancora un po' di nuvole, però non prevediamo piogge se non qualche breve acquazzone a ridosso delle zone alpine. Domani al nord torneranno nuvole un po' più estese, magari anche qualche pioggia in più, ma per fortuna nulla a che vedere con quanto accaduto nei giorni scorsi. Con questo è tutto, ma per rimanere aggiornati vi consiglio di scaricare l'app gratuita di 3B Meteo. In Italia facciamo cose normali, per questo siamo diversi. Ai nostri clienti rispondiamo in tre squilli. Controlliamo una volta al minuto la qualità dei servizi offerti. Aggiorniamo ogni anno la nostra offerta via Nova con nuovi servizi di telecomunicazione e di collaborazione inclusi nel prezzo. E lo facciamo per tutti i clienti, vecchi e nuovi. E senza chiedere nulla in cambio. Siamo perfetti? No, siamo diversi. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Chiama il 145, ti rispondiamo in tre squilli. Tic tac, è piccolo. Ma piccolo è anche dolce, dolce è anche fresco. In un tic tac ti aspetta molto più di quello che ti aspetti. Tic tac, rinfresca in un tic, sorprende in un tac. Findomestic? Sì. SGT Corriere Espresso, un pacco per lei. Grazie. Generali? Sì. SGT Corriere Espresso, una consegna per lei. Grazie. Esprinet? Laboratoire Boiron, Johnson & Johnson, Total Erg? Sì. SGT Corriere Espresso, una consegna per voi. Grazie. Grazie a tutti i nostri clienti. Banca Montepaschi Siena, Adecco, Geodis Logistics. Noi di SGT, oggi siamo uno dei più grandi Corrieri Espresso nazionali e continueremo ad esserlo. SGT, consegniamo fiducia. SGT.it. Ma i prodotti biologici sono veramente biologici? Ah, certo! Sono tutti certificati! Allora scelgo la linea Vivi Verde Coop, con tanti alimenti biologici buoni, sani e genuini. La Coop sei tu. Vuoi far crescere la tua azienda? Trasforma le informazioni in valore per il tuo business. Computer Gross e la sua rete di business partner IBM certificati in area Analytics hanno la risposta. Analisi facile. IBM Watson Analytics e IBM Cognos Express a tasso zero. Vai su analisifacile.it, trovi il rivenditore più vicino e una prova gratuita. Pubblicità, finanziamento a 12 mesi in 4 rate trimestrali anticipate senza interessi, TAEG 0%. Offerta soggetta ad approvazione di IBM Italia Servizi Finanziari S.p.A. scade il 39-2015. Fogli informativi presso i rivenditori autorizzati. Fiat Professional. International presenta So Diego, ti spiego. La Malta. Malta, isoletta amata dai muratori bergamaschi, raggiungibile col Doblò Cargo, in quanto cargo. E fino al 30 settembre, nuovo Doblò Cargo ti regala il terzo posto in cabina e i sensori di parcheggio. In più, con leasing facile, è tuo da 119 euro al mese. TAN 2,95 anticipo 21%. E dopo 5 anni puoi riscattarlo o restituirlo. Offerta valida in caso di permuta, salvo approvazione FCA Bank. Ma Malta dove sta? Nel martello? Melog. Cronache meridiane. Ma dico io, ma voi altri non fate altro che lamentarvi che non ce la fate a stare in questo posto. Ma non ce l'avete il coraggio di andarvene via da qua dentro? Ma che cosa vi credete di essere, vacca troia? Pazzi? Davvero? Invece no. Voi non siete più pazzi della media dei coglioni che vanno in giro per la strada, ve lo dico io. Ma guarda questi. Noi viviamo ancora attraverso alcune immagini simboliche, luoghi comuni, rappresentazioni fantastiche del disagio psichico e psichiatrico. Uno di questi è Qualcuno volò sul nido del cuculo, con Jack Nicholson, con tutta la sua banda di folli. Beh, la realtà è lievemente diversa. Noi stiamo raccontando questa mattina una realtà realistica, dalla voce di una persona che è passato attraverso un lungo disagio in luoghi di cura, dove curavano il suo problema di tipo psichico. È Stefano Dionisi, un attore di grido che a un certo punto nel corso della sua vita professionale è andato a sbattere la faccia con un problema di questo tipo, e ci racconta cosa è accaduto in questi anni. Il libro che ha scritto è La barca dei folli. Chi è interessato, lo presenteranno domani a Roma alle 18 alla Galleria Sordi. Sentiamo qualche ascoltatore, poi dopo parlerà Dionisi e parlerà l'amico Beppe Neri, che voglio capire, intanto si pensa alla risposta, quanto bisogna fare un punto su quello che è in Italia i luoghi in cui viene curata e seguita il disagio psichico, se no uno pensa che ancora esistano i manicomi come li immaginavamo noi. Probabilmente non è niente del genere, ma ce lo racconterà Beppe Neri. Buongiorno Tiziana, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Dunque, innanzitutto complimenti alla radiotrasmissione. Non accettiamo complimenti, lei che ci conosce lo sa, vada avanti. Dunque volevo fare complimenti all'attore. Ah beh, lui se vuole si riprende, certo. Per cosa i complimenti? Perché uno è ritornato in pista. Poi dunque volevo aggiungere, allora io lo segue sul medico in famiglia, lei? Sì. Come? Lo segue nel medico in famiglia? No, io allora. Però sono un medico. Fra un po' allora lo seguirà. Allora lo seguirà fra un po'. Lei è un medico? Sì, sono un medico di emergenza del 118. Se mi permettete volevo fare un appunto. Sì. Non è che esistano proprio i pazzi. Beh. Non esistono in realtà. Cioè, diciamo, ci sono due estremi e noi fluttuiamo sempre tra questi due estremi. Ma perché ha paura di pronunciare la parola pazzi? Io mi reputo pazzo e non c'è niente di strano. No, ma non c'è il pazzo. Cioè, no. Non è... cioè, ne conosco tanti, però. Sì, vabbè, ma un po' tutti siamo... Sì, ma non è che togliendo la pregiudiziale, la parola pazzo, si risolve il problema di chi ha, diciamo, una visione del mondo neurodiversa rispetto a quella del resto del mondo. Ma non abbiamo paura delle parole, non è che il fatto che non si dica più pazzi, non ci sono persone che hanno questo tipo di problema o che la società ha un pregiudizio verso questo tipo di problema. La penso così. Melita, buongiorno. Buongiorno, ecco, chiedo scusa, è la prima volta che parlo, dunque sono un po' emozionata. Niente complimenti, pronto? Sì, l'ascolto. Ecco, niente complimenti perché non vi carmano. Allora, io volevo dire una cosa, io sono laureata in medicina e chirurgia, mio marito è architetto. Tutte e due abbiamo sofferto di depressione, io per circa 2 anni, depressione semplice, mio marito lo stesso, più volte, 1 anno e mezzo, 2 anni, lui bipolare, cioè con... Sì, sì, ma non è una trasmissione clinica, non voglio sapere i sintomi, mi dica il allora, succo di questa trasmissione. Prima di noi c'è una trasmissione che parla di malattie, di problemi, io voglio capire questo periodo in cui avete consapevolezza di una diversità di punto di vista rispetto al resto del mondo, il resto del mondo come vi guardava? Allora, è proprio questo, io vorrei cercare di dare di aiutare, di dar speranza a tutti quelli che hanno questo tipo di problematica e dire che in qualsiasi gravità fosse, se ne può uscire, tutti e due ne siamo usciti, non siamo stati ricoverati, io ho frequentato più psicologi. Non siete più matti, non siete più matti praticamente. Prego? Non siete più matti. Ma quali matti? Per niente più va bene, matti. Allora se, sono felice. Sono felice. Non aspetti, c'è una cosa importante. Il mio psicologo di adesso, perché poi non ho frequentato a lungo due, tre sedute con psicologi che mi dicevano. Sì, però l'ha fatta troppo lunga, Melita. Arrivi al punto, forza. Il punto è questo: che oggi come oggi io sono convinta che un essere umano senza un po' di follia non gode la vita. E che sia io che mio marito diciamo, ringraziamo Dio per aver passato questi momenti tragici. Quando si è in depressione siamo dei zombie, morti vivi, però quando io vedo tanti zombie, Melita, per strada, che non sono depressi ma sono zombie ugualmente. Beppe Neri, quello che ha detto Melita, dice: senza un po' di follia non si gode la vita, sei d'accordo? Beh, c'è una radice, di verità nel fatto che l'andamento dell'esistenza, se non è reso vivace da qualche lampo che va al di fuori dell'ordinario, diventa di una ovvietà e di una banalità assoluta. Qui però entriamo in un ambito di patologie importanti, non bisogna sottostimare l'organizzazione dell'assistenza. Sai, il discorso è che per alcuni anni si è pensato che con un tratto di penna, chiudendo le strutture che erano da chiudere, i vecchi manicomi, si fosse risolto il problema dei pazienti con le loro patologie. Allora io penso che Dionisi, che sta lì, che apporta con molto coraggio, secondo me, la sua esperienza, senza giri di parole, senza infiocchettare nulla, senza edulcorare nulla, ma dicendo le cose come stanno, mette il dito nella piaga. Cioè lui ha avuto degli episodi acuti, ha avuto bisogno di essere ricoverato, diciamolo, contro il suo parere, trattamento sanitario obbligatorio. TSO, allora, questo è. Cioè. Uno dei punti salienti è questo. Noi costruimmo nel 78 un modello in cui sembrava che tutto fosse risolvibile come crisi episodica circoscritta che dura pochi giorni e che si risolve per poi seguire il paziente dopo. Il trattamento sanitario obbligatorio di solito è un periodo di ricovero ragionevolmente breve, mai o rarissimamente supera i 10-15 giorni. In realtà una serie di patologie, immagino, ma ce lo dirà Stefano se io dico giusto o sbagliato, anche quella che lo riguarda, una serie di patologie si sviluppano nell'arco degli anni, sono suscettibili di ricadute, hanno dei periodi anche abbastanza lunghi in cui la persona ha bisogno di essere seguita anche in un regime di ricovero, ed ecco che nascono queste realtà alternative che lui descrive molto bene. Le case di cura, famigerate o meno, ma che comunque svolgono un ruolo, convenzionate o meno, e quelle, come dice lui nel libro, che esistono ma sono per un'elite, da 6.000 euro alla settimana. Allora io penso di aver intuito dalla collocazione geografica e penso al fatto che non sia forse un caso che lui, uno dei suoi pazienti, dei suoi amici pazienti, lo chiama Giovanni Battista, io penso a qualcosa che avesse a che fare con l'Arno. Ma detto questo, il modello che ci interessa è: cosa se ne fanno le persone in famiglia che hanno un paziente così? Qualche risposta ottengono? In tante circostanze devono ricorrere, secondo me anche con risultati soddisfacenti, a una rete di servizi che copre anche la cronicità, che era un tabù, che era una cosa che veniva un pochino messa da parte, ma che l'esperienza, perché i malati esistono in Italia come in Scandinavia, in Sud America come nella Federazione Russa, devono dare la possibilità a chi ne ha bisogno di essere seguito al di là del brevissimo episodio acuto. E Stefano racconta molto bene, fotografa con precisione i personaggi, io penso di averli visti, è come se li avessi visti anch'io, perché da giovane. Quanti anni hai bazzicato questi posti, Beppe, nella tua vita? Che fetta. Ma i primi dieci anni della mia carriera, quando ancora non ero strutturato in ospedale, ciò che mi dava da sbarcare il lunario era fare le guardie in una struttura psichiatrica che privata, convenzionata, che probabilmente, stando lungo il raccordo, non è lontana da quelle da cui ciuff ciuff vedeva il trenino da Viterbo che veniva giù tutti i giorni alle 18:15. Allora, Stefano Dionisi, entriamo un pochino più in questo. Tu hai sceneggiato proprio questo ambiente, che è un ambiente da cui tutti prendono le distanze, chi lo frequenta tace, lo tiene nascosto. Tu l'hai trasformato in un fantastico film, con delle storie, con degli intrecci fantastici. Parlava Beppe Neri del rapporto fra famiglia e persona ricoverata. C'è una storia che sembra uscire da tutti gli schemi. La persona che si era innamorato di una sua collega e la moglie l'ha scoperto. Una persona, cioè tu parli del Galeotto? Sì, del Galeotto. Storia un po' complicata. No, nel senso che nelle cliniche, in questo caso, in questa clinica semi-convenzionata. Nessuno lo dice questo è un grande tabù. Cioè, nascono amori. Anche nelle cliniche, diciamo, non è accettato il fatto che si possano avere degli scambi sessuali, però sono molto evidenti, perché anche nel libro, che è stato diviso così dalla Mondadori in capitoli, ma in realtà il calore del corpo che hanno preso come per farne poi il nome del capitolo è in realtà quello che necessitano anche questi pazienti. Cioè il fatto di trovare un'altra persona che anche solo attraverso il sesso, perché nasce dalla disperazione di essere soli, di confrontarsi e poi corteggiarsi, e quindi succedono tantissime non storie d'amore. Non si capisce, dovrebbe essere condannati alla castità e alla castrazione emotiva. Ma in realtà questa clinica funzionava molto bene, non è mai successo. Cioè, non vanno mai scoperti. Non hanno neanche ammessi, anch'io devo dire ho avuto la mia ultima esperienza proprio in uno dei bagni della clinica, che è stata la fine di una storia d'amore, perché ci si nascondeva nei bagni della clinica o di notte nelle stesse stanze. Si tornava era quelle cose storie clandestine quando sei molto giovane. C'era anche il plagio, c'era anche il plagio da paziente a paziente. Allora fermati un attimo, visto l'argomento è interessante, dare un attimo la linea, e queste sono le necessità del nostro tempo, poi riprendiamo su questo tema. Mi interessa molto l'aspetto affettivo, relazionale, che è il più indicibile in un luogo in cui tutto sembra essere indicibile. A tra un istante. Melog, Cronache Meridiane. Gigliola, buongiorno. Buongiorno. A me è capitata una cosa molto più lieve magari rispetto ai casi precedenti, però alla fine mi sono io da sola, come si dice, castrata, mi sono io isolata. E mi sono io. Pensi se avesse avuto le palle, quanto sarebbe fatta male. Però di fatto è andata così, mi sono talmente chiusa che a volte dico ero diventata autistica, perché. Beh, oddio, ci si nasce, magari ci si nasce purtroppo, non ci si diventa. E se si potesse entrare e uscire magari più facilmente. Beh, quindi però lei conferma che esiste un pregiudizio, un momento in cui lei ha deciso: ho preferito isolarmi piuttosto che comunicare al mondo o per presentarmi al mondo con il mio problema, conferma quello che stiamo dicendo noi. Sì, sì, però io mi sono anche resa conto di una cosa, che il mio punto negativo, che è quello che non sopporto ed è quello che probabilmente ha fatto andare in cortocircuito tutto il pensiero, era che a un certo punto mi sono resa conto di non essere capace di, come si dice, difendermi da attacchi della vita quotidiana. Allora Gigliola, ho capito perfettamente. La cosa che noto però nel mio pubblico, che in questo momento chiamano le persone che hanno il problema sulla loro pelle, non mi ha chiamato ancora un familiare. Vorrei un familiare che comunque ha un marito, una moglie, ha chiamato una signora, ma se lo condivideva col marito, erano una sorta di comunione dei beni avere entrambi la depressione. Possibile che nessuno che gestisca una persona con problemi psichici abbia voglia di chiamare e dire qual è il suo punto di vista? Stefano Dionisi, ricordo il suo libro La barca dei folli, sarà presentato domani a Roma. Stiamo toccando l'aspetto più divertente e più inedito rispetto ai luoghi dove si curano e si fanno terapie i malati psichici, l'aspetto affettivo e relazionale. Tu dici è successo anche a te, ci si innamora, si cercano altre persone, ma sembra normale. Perché dovrebbe essere condannato alla castità una persona che ha questi problemi? È successo anche a me, ma io non ho avuto una relazione con una paziente. Io ho avuto una relazione con la mia fidanzata, che mi è venuta a trovare e mi ha deciso che non era quella la strada da seguire in due. Insomma, ero troppo fragile e la nostra storia si è esaurita in un ultimo rapporto. Invece che portarla in un posto romantico, la portavi nei bagni, non era. Certo. Però, l'altro che dovevi però fare? Voglio dire, che dovevi fare? Quello, magari non l'aveva mai fatto. Cioè, gente va alla ricerca di queste cose strane, di necessità e fatto virtù. Poi senza chiave, per cui voglio dire. Però è una storia d'amore. E continua tuttora, mi sembra, no? No, è finita? È finita col bagno, per questo la sto raccontando nel libro. Non puoi manco volergliene. Righe. Non puoi manco volergliene, però alla fine, dai. Sarà stufata dei bagni, forse, no? Non era l'unica volta nel bagno. Non è che succedeva una volta a settimana. È la volta seguente, l'avrà preoccupata, forse. No, io penso che vedermi in quella situazione, lei è una donna di successo, ha capito che non ero sostenibile. Insomma non si voleva dar da fare con me. Ecco. Perché le donne di successo non avere persone. Beh, le donne di 32-35 anni fanno delle scelte importanti. Ho il lavoro, i figli, insomma, questa cosa esiste, è vera. Anche guardiamo quanti pochi figli abbiamo. Tu eri un bel carico da portarsi. Io ero un bel carico, però. Poi qualcuno però sempre generoso. Quindi ce l'hai una donna adesso, però. Ho una compagna. E gli hai dedicato anni. Il libro. Gli ho dedicato il libro, si chiama Elena. E quindi ho una relazione che mi sostiene, una donna che amo, certo. Quindi raccontami un pochino allora la storia del galeotto, quella mi interessa molto. Ora abbiamo parlato dell'amore. Allora, il galeotto. No, perché era divertente. Sì, sì. Non è quella che ho amato di più scrivere, Galeotto, perché bisognava specificare che nasceva Facebook, che era la prima volta che lo vedevo io, che non ho computer, non ho niente. E lui con Facebook cercava di avere, come dire, di rimorchiare delle ragazze in tutte le città d'Italia. Comunque nel frattempo si. Era un pioniere, comunque. Era per me, sì. Io, però guarda, che secondo me non, gli amici non te li farai mai. Ah, non mi frega, è solo per scopare. La cosa finisce, c'è una paziente fragilissima che in qualche modo viene sedotta dal galeotto, nasce una grossissima storia d'amore all'interno della clinica, all'interno dei bagni, forse all'interno della camerata notturna, ma il galeotto viene scoperto dalla moglie, per cui cosa rischia? Se la moglie accetta il divorzio, chiede il divorzio, lui non ha più un domicilio, quindi perderebbe anche gli arresti domiciliari una volta uscito dalla clinica. La situazione è disperata, il sesso prende sempre il sopravvento su tutto, ha un'ultima relazione con questa ragazza prima della sua uscita, prima delle sue dimissioni. Passano dei giorni, siamo in un cortiletto, si fuma caffè, si fuma, perché c'è solo quello, si fuma caffè. Cioè il caffè lo fumavate? Caffè ovviamente solo alle 8 e all'1, non a tutti, eccetera. Comunque si facevano dei cappuccini di nascosto, liofilizzati, che qualcuno si portava. Abbiamo visto la barella, che di solito però portava l'ambulanza con la barella e il 118, che di solito portava il macchinario dell'elettroshock, adagiato così come un... insomma adagiato con un telo bianco, e poi veniva somministrato ai vari pazienti che erano in attesa durante la mattinata. Mentre succedeva questo pensavamo che fosse, però non era il giorno dell'elettroshock, è il martedì o il mercoledì, ora non ricordo, e abbiamo notato che c'era una persona, e purtroppo ho visto nel viso di questa persona la morte, cioè in 3 giorni che questa ragazza era stata dimessa dopo questa storia irruenta con il galeotto, aveva tentato il suicidio, per cui l'abbiamo rivista rientrare con i polsi fasciati e trasportata in una delle camere. Sandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io ho avuto appunto una storia di grosso innamoramento nei confronti di una persona con disturbo mentale, come si dice adesso. Ecco, tutto quello che sta dicendo Stefano mi corrisponde, c'è stato il trattamento coatto, l'obbligatorio, poi la condivisione con gli amici di questi stati di alterazione, non dormire tutta la, per varie notti, accompagnarlo. Eravamo tutti preda, diciamo, di quel... Io naturalmente... Era lui che dava i tempi, naturalmente. Certo, ma io ero nel pieno film, amore io ti salverò, ovviamente, quindi sono andata forte come un treno in questa grande storia d'amore, e lui pienamente dentro in quel clima ospedaliero che poteva essere, non so, tipo la meglio gioventù, quella ragazza con disturbi che i due fratelli cercano, diciamo, di sottrarre al suo male. E poi invece percorrendo questa strada di grande gioia ma anche di grande sofferenza, negavamo la malattia come dato clinico, perché eravamo proprio Com'è finita la storia, Sandra? Beh, io innanzitutto appunto queste storie, queste cliniche così care, così non se le poteva permettere. Mi sono sognata la notte che, oltre che fare il mio lavoro di insegnante, io la notte cucivo, facevo la sarta per poter pagare quindi, €3.000. E com'è finita? E in un modo che mi ha distrutto come donna, nel senso che io gli ho fatto proprio un biglietto nel quale gli dicevo che lo lasciavo perché non ce la faceva più, e non gliel'ho mandato in un momento di stasi, l'ho mandato quando lui era proprio ricoverato. E lui, la sigla mi dice che è finita la sua storia, è finita col biglietto, è finita tutta, non è finita la storia di Stefano Dionisi, che mi ha detto prima una cosa importante, cioè tutti sono preoccupati del fatto che il treno passa solo una volta. Non è vero, i treni ne passano tanti, vero? Continuano a passare i treni. Certo, adesso non è il momento per dire più passa solo un treno alla volta, fai le cose da, cioè deve finire questa idea che tutto sia fatto da soli, ecco, finché si fa da soli, ma non solo nelle malattie psichiatriche, ma anche nel sociale, finché si fa troppo da soli non si crea nulla e qua, di interessante. E qua chiudiamo, la sigla ci porta